quando siete finiti voi, finiti, appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara, siete morti che camminano, morti che camminano. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Comincia a sparare alle case, a dare picconate, perché non c'è più lo Stato. La gente non riesce a parlare con nessuno. Abbiamo capito che la gente comincia a dare a picconate perché, secondo lui, non c'è più lo Stato. Adesso ricomincia con la tua solita tiritera, Parenzo, l'hai votato, no, eccetera. No, ricomincia. No, non te lo ripeto più, dico semplicemente che quella persona là che hai mandato in Parlamento con quel manipolo di personaggi sono persone pericolose. Lui è una persona pericolosa, molto pericolosa. State giocando col fuoco. E intanto pochi istanti fa, in un posto che si chiama Corato, vicino Barletta, Beppe Grillo ha detto: io spero in una nostra affermazione totale, perché se non ci affermiamo noi ci saranno le barricate, si dovranno assumere loro la responsabilità. Cioè, senza la nostra affermazione totale, che significa prendere il potere, ci saranno le barricate. Perché ci dovrebbero essere le barricate, di grazia, se Grillo non prende il potere? Poi si rivolge a polizia e carabinieri: per quanto dovrete ancora subire le scorte dei politici, Abbiamo 1000 autisti che costano 850 milioni l'anno per avere le macchine grigie e blu per seguire questa gente qua. Io mi rivolgo alla forza pubblica, ai carabinieri, alla polizia. Quanta pazienza dovete avere ancora con questa gente? Quanto dovete ancora soffrire? Quanto dovete soffrire? Basta! Quando capirete che siete cittadini come noi, con gli stessi problemi, avete figli, madri da mantenere. Cioè, l'incitamento alla rivolta di polizia e carabinieri, non ho capito. Vabbè. Intanto uno dei suoi deputati, un romano che si chiama Battista, dice: ma tu scoprendo, lo rivoteresti oggi? Stai zitto, scoprendo l'acqua calda. Casaleggio e associati non può indirizzare il Movimento 5 Stelle. Ripeto, scoprendo l'acqua calda. Il problema degli stipendi è stato creato da Grillo, dice Battista, e fra i parlamentari aumentano quelli che non la pensano come lui. Sarà. Ma in qualche modo pure. Intanto è morta una terza persona, uccisa dal picconatore ghanese. Non occorre dire ghanese. No, da un picconatore ghanese, assolutamente. Da un picconatore. Il quale nonostante il no alla domanda di asilo presentata, è rimasto in Italia, perché in Italia si prevede il fatto che tu possa incredibilmente fare ricorso. Magdi Cristiano Allam, che come sentite dal nome non è propriamente italico, no? Originario dell'Italia, no, indigeno, no, come si dice, no? Dice che il problema è la Chienghe, che è un immigrato. Senti. Non mettere a capo di un ministero dell'integrazione un immigrato che continua ad oggi, mi riferisco al ministro Cecil Chienghe, a presiedere un movimento che si chiama Primo Marzo, che ogni anno promuove una manifestazione, uno sciopero nazionale contro gli italiani accusati di essere dei razzisti. Questo è il problema. O intanto io manderei a quel paese chi vuole sottoporre questo tizio, questo cabobo, non so come diavolo si chiama, non lo sa nemmeno lui forse, a perizia psichiatrica. Magari lo mandano fuori dopo la perizia psichiatrica. In libertà, via in libertà. Beh, però in uno invece, stato, di, in uno... invece di spedirlo in Ghana, invece di scusami, spedirlo... in perché uno sente, stato di diritto. Perché dice ha ucciso perché sentiva delle forze oscure. Ma no. Adesso quello che dice non ci interessa. In uno stato di diritto, se è prevista anche una perizia psichiatrica, è giusto che ci sia. Non capisco perché fai il garantista nei processi di Berlusconi in cui c'è un legittimo impedimento. Stai calmo, stai calmo, che abbiamo un ospite, una signora che ti sta ascoltando. E per il negro no, invece. Stai tranquillo, stai tranquillo. Devi stare tranquillo, devi stare calmo. Tranquillo. Devi stare calmo e tranquillo. Brunetta. Il negro non ha diritto. Stai tranquillo, vero? Brunetta. Vai, vai fino in fondo. Brunetta contro la Boldrini. Patetico. Ha chiesto di parlare il deputato Brunetta, ne ha facoltà. Deputato Boldrini, visto che lei chiama deputato il sottoscritto che è presidente di gruppo, io lo chiamerò deputato Boldrini. Inizia così, diciamo, semplicemente così, un Brunetta come al solito molto piccato, poi sostiene che la Boldrini doveva condannare le aggressioni subite da alcuni parlamentari del PDL in piazza perché c'erano anche persone di sella. È vero che la Boldrini interviene un po' su tutto in questo periodo, però non è che si può pretendere che il Presidente della Camera su ogni cosa metta bocca. Comunque, Brunetta. Non ho sentito a Brescia, e io a Brescia c'ero, nessun insulto alla magistratura. Io nei giorni successivi non ho sentito da parte sua, onorevole Boldrini, nessuna presa di distanze né dal suo partito, che è qui rappresentato in Parlamento e che aveva con le bandiere disturbato una democratica manifestazione. E infine uno dei casi della settimana. Cosa è accaduto, caro Parenzo? Che durante una specie di monologo recitato dalla Cortellesi, ma scritto dalla Dandini a servizio pubblico, si sono udite queste parole con un chiaro riferimento, anche se poi la Cortellesi incredibilmente nega. E questa è la cosa folle, perché alcune persone poi dicono le cose, ma non si assumono responsabilità di quello che dicono. Comunque, pronuncia queste parole nei confronti di una persona che abbiamo qui ospite, che è la conduttrice della Domenica Sportiva, Paola Ferrari. Sentiamo. Vabbè, che tanto decideva sempre lui quello che bisognava guardare, tanto valeva che morivo, no? Oh, meglio morta che guardarmi un'altra Domenica Sportiva con cosa? Con l'illuminata. Illuminata, con la presentatrice piena di luce che pare la Madonna. Quella bionda che dice i risultati con i labbra di rossetto forte e orecchini di lampadario. A lui gli piace tanto quanto gli piaceva. Beh, a me mi faceva invece proprio schifo, guarda un po'. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Paolo Ferrari è con noi, buonasera. Buonasera a tutti. Come stai, ragazza? Come stai, Paola? Sto bene, bene. Devo dirvi che sono rimasta male, sono stata male per qualche ora quando ho sentito quello. Ma secondo te, scusa, detto, al di là del fatto che sei stata male, che mi sono ripresa poi. Vabbè, dai. Chiaro, vabbè, insomma, dai. Ci sono cose più gravi nella vita. Però, però. Scusa un attimo, come mai la Cortellesi dice no, io non mi riferivo alla Ferrari, ma ti pare possibile una cosa del genere? Questo bisogna chiederlo alla Cortellesi, perché all'uscita è stata peggio, insomma, riparare il danno è stato forse peggio del danno, perché non è che puoi dire non mi riferivo a lei quando dice conduttrice della Domenica Sportiva bionda, la conduco da anni, quindi. Ma insomma, è chiaro. Ma non è questo il problema. Eri tu, perché se la pigliano? Perché se la pigliano con te? Adesso ci parleremo anche con lei, Paola, perché so che vuole chiarire, questo sicuramente le fa onore. Io sicuramente non mi tirerò indietro, perché tra donne bisogna sempre cercare di capirsi, non di attaccarsi. Quello che a me ha dato particolarmente fastidio, al di là della cattiveria, sono abituata a queste cose, è che sia stato fatto in un contesto come quello di uno spot tratto sulla violenza, sulla violenza, femminicidio. Sì, sulla violenza nei confronti delle donne. Contro la violenza alle donne, tu vai a attaccare con questa violenza una donna che fa il suo lavoro. Poi io sono una che nel mio piccolo ho sempre lavorato per l'immagine di una donna emancipata in un mondo. Ma chi l'ha scritta questa cosa? Scusa, Paola. Che io sappia è la Dandini. la Dandini ha scritto questo spettacolo. Ma come mai? Ce l'ha con te? È avvelenata con te? Avete qualche... Ma non lo so, che ne so, perché io l'ho incontrata... Ma scusa, una che ha scritto anche... una cosa del genere, tu come la consideri? Io lo considererei uno stronzo, uno che ha scritto una... Che se scrivesse una cosa del genere contro di me, all'interno di un monologo sulla violenza sulle donne, io dico, beh, insomma, bella stronza, o no? Questo posso magari averlo pensato al momento... E poi ho anche pensato, ma che cosa ho fatto allora io per anni che ho lavorato e guarda qua che cosa porto a casa. Vabbè, ma è così, è giusto che tu l'abbia pensato, è giusto che tu l'abbia pensato. Io l'ho pensato, sono andata, prima reazione è restarci molto male. Poi... Ormai noi abbiamo discusso l'anno scorso su Twitter, se ti ricordi. Come no. Abbiamo visto adesso gli sviluppi, mi ricordo che durante la nostra telefonata... Vabbè, tu volevi querelare Twitter addirittura. Mi ricordi che durante la nostra telefonata twittò Mentana? Sì, come no, abbiamo visto cosa è successo. Quindi gli insulti siamo abituati. È il contesto fatto da una donna in quel modo così forte... Una stronza, è una stronza. Quello che hai detto tu, però si pensa poi passa. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito. Andiamo sul facile, la Santanchè. Devo chiedere una cosa alla. Aspetta, Paola Ferrari. Mi fai lavorare o no? Ma io ti sto facendo. Fammi lavorare un attimo, sto facendo una cosa, fammi lavorare, poi ti dici. Chiedi, ma non ti vedo. Poi chiedi tutto quello che vuoi, ma se sto parlando significa che sto introducendo qualche c'è la cosa. Censura. In questa trasmissione si è trovata la censura, va bene. Che vuoi chiedere, avanti, su. Facciamo l'articolo 21 Federazione Stata. Dai, cosa vuoi chiedere? Avanti, su, cosa volevo vuoi chiedere come sta l'ingegner De Benedetti? Oddio, sei fissato con questa cosa qui. Ma posso chiedere il mio amico, ingegner De Benedetti? Ma quale di De Benedetti? Quale? L'ingegnere, meno Marco, è un fratello per me quasi. Cosa vuoi chiedere? Che ne so, come sta l'ingegnere De Benedetti? Vuole sapere. Sta bene, sta molto bene, l'ho visto qualche giorno fa, credo lo rivedrò anche nei prossimi giorni. È felice di non avere più in mano l'editoria, di aver lasciato i quello film. Quello volevo capire. No, lui non è che ha lasciato l'editoria, lui ha lasciato l'azienda. L'azienda, ecco, ai figli, però c'è sempre, non è che non se ne occupa più. È sempre sul pezzo, diciamo la verità. Ce lo saluti sempre, molto. Senti, una grande energia. Posso chiederti, Paola, se l'anno prossimo condurrai ancora la Domenica Sportiva? Sì, lo sa, tu sai che il direttore di Rai Sport sta andando via, Eugenio De Paoli, quindi aspettiamo che la Rai, il dottor Guttoni, scelga un nuovo direttore. Vediamo, forse sì. Siamo ma ti va o no? Ti va o no? Perché sì, con un anno ancora sì. Mi diverto con Gene. Un anno e basta, magari, sì. Un anno anche e basta. Perché sì, poi basta, perché sennò la gente si stufa. Sono troppi anni. No, perché siccome già volevi fare l'assessore, poi la cosa non è andata alla Regione Lombardia. Me l'avevano offerto, poi ho visto com'è la politica che non è cambiata e cioè meglio fare la Domenica Sportiva. Finché se hai veti, le cose... Veti, incrociati, è un discorso di vecchia politica che non mi appartengono. Scusa un attimo, ma non è che questo attacco da parte della signora Dandini con la collaborazione di Paola Cortellesi viene anche dal fatto che tu, insomma, sei amica di Daniela Santanchè, ma tu che cosa hai votato le scorse elezioni, te lo posso chiedere? Cosa ho votato? Il voto è segreto, non te lo posso dire, ma ho votato in modo davvero interessante, posso beh, come interessante, scusa, Daniela è una mia amica, hai votato per il PDL? Non interessa se Daniela è PDL o non PDL, è comunque una mia amica. No, ma certo, mica è un delitto essere amici di qualcuno. Sì, però a volte attaccano anche me per attaccare lei. Qualcuno ha letto dietro tanta ironia in questi anni da parte di alcuni personaggi come Luca Bottura, come Andrea Scanzi e altri, anche diciamo una deriva politica. Io non ci voglio credere, non ci voglio nemmeno pensare, voglio pensare in positivo. Abbiamo troppe cose tristi. Però scusa un attimo, ci puoi dire, bisogna essere anche onesti, secondo me, onesti dal punto di vista, io ho detto per esempio, pure David, abbiamo detto, secondo me le persone pubbliche possono anche esporsi qualche volta, io ho votato questo e qual è il problema? Lo potresti anche dire, ho votato per Totto, lo dico, non è che tu sei poi timbrata in un certo modo. Ho votato in maniera sorprendente. Sorprendente, che vuol dire sorprendente? Quello che non ti aspetteresti da me. No, ma io non mi aspetto questo, nulla. Sai, a sinistra o a destra? Io affronto la vita con molta dignità, faccio il mio lavoro da 30 anni. No, ma questo guadagno lo so. Quello che guadagno un giornalista normale. Serena Dandini a stare in Rai guadagnava 800.000 euro all'anno, se non sbaglio. Sono cifre che noi giornalisti non sappiamo nemmeno quello, che nemmeno cosa sono. Cioè, era una vergogna, no, secondo te, quelle cifre? Non è una vergogna, no. Se uno è capace di farsi pagare, bravo lui, però non mi devi venire a staccare e non devi staccare me e dire che io faccio schifo, questo è inaccettabile. Io lavoro nel mio campo, cerco di, vabbè, a qualcuno piaccia, a qualcuno no, lasciami stare. Ma perché dicevi 800.000 euro l'anno? Perché hai citato questa cosa? Perché questo mi ha fatto molto pensare. Perché c'è tanta gente che guadagna tanto, benissimo, io non le critico, però poi non deve andare a dire che fa schifo chi è lì a fare il suo lavoro dalla sera e guadagna molto meno, a timbrare il cartellino per un buonissimo stipendio secondo i tempi di oggi, però normalmente come giornalista fa il suo lavoro. Ti faccio schifo perché? Tu mi devi dire perché ti faccio schifo. Ma che ne so, quelli hanno i pregiudizi. Hanno i pregiudizi contro chi? Non mi piaci. Certo. Tu puoi dirmi, tu non dici delle cose che non mi piacciono, ma fare schifo a una persona è un senso di repulsione, che tu devi fare qualche cosa per farti. Anche un po' razzista, o no? E se l'avesse fatto un uomo, sì, però tu devi far suscitare questo senso di repulsione. Sì. Sinceramente mi domando che cosa ho fatto di così grave. Senti, ma tu puoi invece... A te faccio repulsione? No, ma figurati, Paolo, lo sai che... Davide, no, non credo. No, anzi. Ma assolutamente, penso... Io non provo repulsione quasi per nessuno, se non per qualcuno che telefona alla zanzara ogni tanto. Ogni tanto anche per me provi repulsione, di la verità. No, perché anzi... Poca sopportazione. Poca sopportazione. Ma puoi dire perché squadra tifi, invece? Che tifo Milan. Ti fai per Milan, ma l'hai mai detto? Sì, da quando ero ragazza, però un papà interista che mi portava a vedere il Milan, allora tu sai come succede con i ragazzi. Ma secondo te Berlusconi è un po' perseguitato? La pensi come la tua amica Santanchè sulla persecuzione di Berlusconi o no? Io non ho molta fiducia nella magistratura, quindi sicuramente guardando tutte le cose che sono successe qualcosa ti viene da pensare, però la magistratura deve fare il suo corso e io ho molto rispetto della magistratura. Non ti convince la Santanchè su questa cosa qua? Non ti convince fino in fondo? Con la Scondaniera non parlate mai, di tutt'altro che di politica. E di che parlate? Ogni tanto ci confrontiamo su quello, ma parliamo di altri argomenti con una donna molto interessante a 360 gradi, di che qualcuno ne dica. Mi appassiona quando si arrabbia nei dibattiti. Quello che mi piace di più è essere faccia tra lei e Civati, quello del PD. Senti, piace molto, però molto lo sai, bravo. Che quando tu mi dici... Lo vorrei come leader. Addirittura, tu lo vorresti come leader? Sì. Fai il tifo per... Il PD lo vedo benissimo, Civati. Ma lo vedi che secondo me hai votato PD, però? No. Ho votato in maniera sorprendente, che ne so, Grillo, che ne so. Vediamo cosa succede. Va bene. Secondo me ha votato PDL alla Camera e Grillo al Senato, viceversa. Cioè ha dato un voto alla Santanchè, a Milano, alla Camera, in Lombardia. No, perché in realtà la Santanchè era Lombardia 2, per cui non ha... Santanchè era in Lombardia 3. Ho votato a Roma, che è la mia città. Ma non Roma. Le piace Renzi, invece. Comunque facciamo pace noi donne, non attacchiamo, ci siamo vicine e sono... Ma non bisogna essere vicino a tutte le donne. Per questa cosa che fanno sul femminicidio. Ma non bisogna essere vicini a tutte le donne. Non è vero, non sono tutte uguali. Ci sono delle persone. Fermo. Rubo 30 secondi. Non fare la buonista a tutti i costi. Tutte no. Io ultimamente non ho fatto la buonista. Io ho difeso molto le donne per tanti anni. Ultimamente ho detto noi donne, molte di noi non esiste, non meritano noi di essere difese, perché le donne hanno fatto passi indietro negli anni come comportamenti e come scelte. Cioè, per esempio, quelle che vanno alle cene di Berlusconi come sono? Ma io non faccio un esempio di quelle, in generale. Abbiamo fatto il passo del gambero. Detto questo, se la Dandini e la Cortellesi si impegnano in qualcosa di importante, però basta che non mi mettono in mezzo, ti mettono in mezzo. Andrò in prima fila se mi vogliono al loro spettacolo. Dubito, grazie. Poi vedremo. Però sulle donne parleremo un'altra volta. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Ha scritto Michele Serra su Repubblica qualche giorno fa: se sento alla radio una persona gridare per molti minuti mongoloide, tu devi finire a Dachau, a un'altra persona, in questo caso Parenzo, è un rosario di atroci insulti razzisti e no, io ci rimango male, anzi malissimo, e mi si chiude lo stomaco, mi si belano gli occhi. soprattutto se, come mi sarei aspettato, la spaventosa sequela di insulti e di minacce "ti sparo, odio tutti gli ebrei" non viene interrotta dai conduttori o dal regista o da chiunque provi pena e vergogna per chi urla quegli insulti, per chi li riceve, per chi a Dachau c'è stato davvero e infine per i mongoloidi che devono morire. No, al contrario, quella telefonata viene attizzata come un bel focherello perché serve allo show, oppure perché tutti hanno diritto di parlare, oppure perché era uno scherzo e io scemo non l'ho capito. Neppure so come i due conduttori, che sono Cruciani e Parenzo, molto seguiti, molto premiati, reagiranno, se reagiranno alla tristezza e alla vergogna di un loro ascoltatore occasionale, se rideranno di me o si offenderanno, Cruciani è nervosetto, o se ne fregheranno altamente, come il loro pieno diritto. Se sono io che non ho capito, se sono loro che non hanno capito. La mia brevissima risposta è questa, per chi interessa ovviamente, poi passiamo ad altro. Sono andato avanti, certo, caro Serra, in questa telefonata, nonostante il parere contrario di Parenzo che mi è stato manifestato dopo la trasmissione, ovviamente, criticando quelle parole, però, perché le abbiamo criticate in due, quelle parole. Forse non abbastanza, ma insomma, se ne può discutere. Sono andato avanti lo stesso perché volevo capire dove voleva arrivare quel signore, un tale Mauro da Mantova, che adesso Parenzo lo dirà successivamente, immagino, vuole portare in tribunale. Quel signore era lucido, quel signore era lucidissimo, per questo l'ho fatto continuare, non era un mezzo squinternato, non era un pazzo. Era determinato, lucido e determinato. Addirittura a un certo punto ha detto: "Io vado con il megafono, vado con il megafono al comizio del PDL a Brescia a dire quello che la penso sui comunisti, sugli ebrei e quant'altro. Non so se sia andato, ma è poco interessante. Vorrei incontrarlo e guardarlo negli occhi. Per questo l'ho fatto continuare, per questo sono andato avanti con quella telefonata di un mezzo mattoide che però era talmente lucido, talmente determinato che secondo me andava la pena ascoltarlo. Valeva la pena ascoltarlo, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. A Vittoria un uomo si dà fuoco perché la sua casa è stata messa all'asta, aveva un debito di 10.000 euro con la banca, ustionate la moglie, le figlie e due agenti di polizia. Crolla il mercato della casa, i minimi dall'85, debito record, industria maglia nera in Europa, Giovannini cautela nel cambiare la riforma del lavoro Fornero, il PDL è ancora all'attacco dei magistrati, ed in aula è scontro tra Brunetta e la Boldrini, Grillo o vinciamo, nel paese ci saranno le barricate. In questo clima si avvia il percorso delle riforme, ma l'ostacolo potrebbe tornare ad essere la legge elettorale. Il ministro Quagliariello, ospite del TG3. Genova confermata l'ipotesi dell'avaria. Nella prima telefonata al 118 la drammatica richiesta d'aiuto dopo l'incidente al molo, domani funerali. Una spy story crea un incidente diplomatico a Mosca, fermato uno 007 americano che cercava di reclutare un collega russo per $1 milioni l'anno. Annuncio shock di Angelina Jolie al New York Times. Rischiavo il tumore, mi sono fatta scortare i seni per prevenirlo. Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito. L'incredibile intervento dell'onorevole Gigli, neurologo friulano, neurologo all'ospedale di Udine, pochi minuti fa in Parlamento. Gigli cosa dice? Scelta Civica, qualcuno lo ricorda nella vicenda Englaro, ma insomma non è questo il punto. Sentite con quale parole, non dico che giustifica, ma quasi, diciamo la verità, giustifica il folle ganese assassino di Milano. Sì, vorrei riferirmi anch'io al caso triste accaduto a Milano a causa di una reazione sicuramente di natura psichiatrica di un giovane immigrato di anni 21, probabilmente sballottato dalla vita, dalle durezze della vita sulle nostre coste. Innanzitutto, signor Gigli, il medico Gigli ha già detto, ha già sentenziato che questa qua è stata una reazione di natura psichiatrica. Poi sballottato dalle durezze della vita sulle nostre coste. Vai Parenzo, vai, vai, vai alla grande, sei d'accordo tu ovviamente, no? Aspetta, mica è finita qui, mica è finita qui, mica è finita qui, aspetta, sentiamo tutto, poi commenti ovviamente, poi diamo spazio anche agli ascoltatori, aspetta. Quella persona era a passeggio proprio per rispetto delle nostre leggi, aveva infatti presentato domanda di ricorso contro il decreto di espulsione ed era in attesa appunto di decisione. A passeggio, era a passeggio come uno qualunque, era a passeggio secondo Giglio, a passeggio. Voi lo capite cosa dice questo deputato della Repubblica di Scelta Civica? Che questo tizio che ha preso a picconate in testa tre persone ammazzandole e ferendone altre, era a passeggio come un qualsiasi altra, una qualsiasi altra persona, a passeggio perché rispettava le nostre leggi. No, no, no, lascia stare, non è finita, senti, quello di Scelta Clinica, di Scelta Clinica. No, ma aspetta, aspetta, non è finita qui, aspetta. Trovarsi per le necessità della vita a 21 anni in un paese del quale forse si conosce a malapena la lingua, in una condizione di disoccupazione, in una condizione probabilmente anche di disperazione, credo che possa far uscire di testa chiunque e non possa in alcun modo essere utilizzato per una polemica politica di profilo molto basso. Ora io dico una cosa, va benissimo la polemica politica, può darsi che ci siano degli eccessi e sicuramente ce ne sono di eccessi nella polemica politica, a parte che è un fatto politico, perché è evidente che è un fatto politico, no? Non è solo un fatto criminale, è talmente evidente perché si parla della questione dell'asilo, si parla della questione dell'immigrazione, dunque la questione è sicuramente politica. Ma perché al di là di questo, l'hanno trasformata in caso politico. Ma non è così, ma è normale che sia così, te ne vuoi rendere conto o no? Allora lui parla di disoccupazione e disperazione che può far uscire di testa chiunque. Benissimo, allora cari disoccupati, cari disperati italiani, cari disperati italiani, prendete un'accetta, prendete un'accetta, prendete un'accetta, no, perché tanto ci sarà un signore di Scelta Civica o Scelta Clinica che tanto dirà, beh siete disperati, siete disoccupati e potete uscire di testa, prendete un'accetta e tiratela in testa ai primi che passano sotto casa, tanto per carità ci sarà sempre qualcuno che in Parlamento dice disperazione e disoccupazione, basta basta! Prendato che ormai è tutto finito! Vabbè è tutto finito Pomicino, però ho capito. Questo Che dici, scusa? No, allora, questa persona ha gli stessi diritti, che ti piacciono, anche se è negro, ha gli stessi diritti di Berlusconi, del miliardario imputato. Ma chi dice? Hai capito? Ma che c'entra? Siccome ma chi lo dice stato il contrario? Di diritto, chi dice il contrario? No, siccome lo Stato di diritto garantisce sia al miliardario Berlusconi, che però ha degli avvocati che gli possono far valere il legittimo impedimento, si può io fare sto pure dicendo, le leggi per sto dicendo che quando uno chiede l'asilo, negro, ed è diritto chiedere. Il negro, oddio, questo negro assassino, sì. Visto che a te piace negro. No, io negro lo dici sì, tu, sì, negro lo vai dici tu. Fino in fondo. No, ma vai, io ti provo. Io non ho mai pronunciato chiamalo la parola negro. Assassino. Io non ho mai chiamalo pronunciato negro. La parola negro. Chiamalo negro assassino. Ma io non ho mai pronunciato la parola negro. Assassino. Siccome ogni volta ma la pronunci tu, amici, la pronunci tu la parola negro. Della Lega, qualifichi l'assassino in base al colore della pelle, cosa aberrante che io mai ho fatto, vai fino in fondo, di l'assassino vabbè, negro, allora? Di che l'assassino negro vabbè. Ha meno diritti guarda dell'imputato vuoi miliardario Berlusconi. Ma che c'è? Ma chi lo dice? Chi lo sostiene? Non hai capito niente. Io dico che se tu ricevi la domanda, se tu presenti una domanda di asilo, ma sei diciamo entrato, sei entrato in Italia. È un assassino, punto. Sì. È un assassino, sì. Ha diritto ad avere una difesa. Io mi auguro che Nicolò Ghedini abbandoni. Ma quale difesa? Scusa, ma di quale difesa? Di quale difesa stiamo parlando? Faccio un appello, ha preso a picconate tre persone della... che di... come deve avere, ha diritto alla difesa, ma sì lui, vabbè no? Certo vabbè d'accordo, ma come il mostro del Circeo, se non lo no? Condannano all'ergastolo ma il mostro del Circeo ha diritto alla difesa andarsene, no? È da andarsene dall'Italia se non lo condannano all'ergastolo, ma il mostro del Circeo ha diritto alla difesa, sì o no? Sì, fammi sentire Riccardo da Roma, fammi sentire io Riccardo da Roma, Ghedini adesso deve mettere in mezzo Ghedini. Deve mettere in mezzo Ghedini, dai. Deve difendere questa persona. Deve mettere in mezzo, metti in mezzo Ghedini che non c'entra nulla. Riccardo da Roma. Dalla Zanzara, sì, chiedendo a Ghedini che difenda l'imputato, Badù. No, Cobobo, manco sai come si chiama. Riccardo da Roma, Riccardo da Roma, vergognati. Cruciani, buonasera. Allora, senta, io intervenivo per parlare appunto del folle che ha ucciso queste tre persone a Milano, no? Sì, folle. Che anche se a Farenzo può dare fastidio, io però sinceramente credo, non è perché abbia nulla in contrario o nulla contro persone appunto che possa essere alganese o meno, però a me dà fastidio molto l'atteggiamento che ha Parenzo, che vuole essere sempre una persona, no, di larghe vedute, però in realtà poi in realtà non lo è. Vabbè, perché, allora io parlo con una persona, mi reputo una persona relativamente capace nel mio campo, io lavoro come avvocato nel campo dell'immigrazione. Soprattutto però nel campo dell'immigrazione. Sì, okay, però Riccardo, andiamo al sodo, cosa ha da dire a Parenzo? Perché allora, non possiamo fare il simposio sulla... No, assolutamente, è semplicemente il fatto che in altri paesi, dove ad esempio nei grandi Stati Uniti di Obama, dove mi pare che Parenzo non si dia problemi a dire che è di origine africana il presidente, sono paesi dove persone che hanno queste caratteristiche non entreranno mai, non sono neanche prese in considerazione, non entrano, punto. E nel momento in cui entrano, se entrano e sgarrano così, vanno fuori subito. Secondo vorrei riferirmi anch'io al caso triste accaduto a Milano a causa di una reazione sicuramente di natura psichiatrica di un giovane immigrato di anni 21, probabilmente sballottato dalla vita, dalle durezze della vita sulle nostre coste. Cause psichiatriche di un giovane sballottato dalla vita, ma soprattutto a passeggio per le strade di Milano, perché era suo diritto. Quella persona era a passeggio proprio per rispetto delle nostre leggi. Aveva infatti presentato domanda di ricorso contro il decreto di espulsione ed era in attesa appunto di decisione. E infine la disperazione, la disoccupazione possono far uscire di testa. Trovarsi per le necessità della vita a 21 anni in un paese del quale forse si conosce a malapena la lingua, in una condizione di disoccupazione, in una condizione probabilmente anche di disperazione, credo che possa far uscire di testa chiunque e non possa in alcun modo essere utilizzato per una polemica politica di profilo molto basso. Siamo qui 800 24 00 24, andiamo alla Spezia. Salvatore, buonasera. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Vada. Io avevo una riflessione, sì, un'opportunità sulla Boccassini, soprattutto anche in base a quello che abbiamo sentito adesso dell'africano immigrato. Perché certe cose ti sconcertano un po', però nell'aver citato la sorta di furberia orientale, oppure a dire che più o meno tutte le ragazzine oggi vorrebbero fare le tablette televisive, non so se in questo modo voleva facilitare il lavoro successivo di Ghedini o semplicemente volesse giustificare una generazione adulta che ha perso il proprio indirizzo morale di apparire ancora più amorali sia ai giovani che ai... Ma lo sai che io non ho capito nulla di quello che lei ha detto, nulla. Che cosa ha da dire sulla Boccassini? Sia chiaro, non faccia ragionamenti astrusi. Quando ha sentito questa cosa sulle orientali e quell'altra cosa, cosa ha pensato? Lo dica sulla Boccassini. Ho detto che in quanto magistrato, almeno io queste cose le ho sentite dal telegiornale. Sì, ecco. Sono sempre relative a notizie, dovremmo leggere gli atti. Ecco, bene, leggiamo gli atti. Giovanni da Campobasso, buonasera. Buonasera, meno male che Cruciani c'è. In che senso? Meno male che Cruciani c'è, perché se no Farenzo, buonasera signor Farenzo, farebbe una trasmissione tutta di sinistra. Sì, comunque, aspetta, che c'entra la sinistra, la destra? Di che stiamo parlando? Perché Parenzo, se si parla di sinistra, da sinistra, allora... Vabbè, poi... non ho capito quale sinistra è Parenzo, se è sinistra ecologia... Ma nessuna sinistra, eh? È la sinistra di Parenzo, la sinistra del buonsenso, la sinistra riformista, che quando sente delle sciocchezze come le sue la manda a quel paese in 40 secondi senza passare per via. Ecco, sei arrivato Parenzo, sei arrivato, manda a sinistra. Io non ho capito tutti quale sinistra sei. Ma nessuna sinistra, sono uno che ragiona, io ragiono con la mia testa. Ma come ragioni con la donna? Guardi, a differenza sua, che purtroppo la testa l'ha lasciata nel freezer stamattina o da qualche altra parte. Senti, io ancora non ti ho offeso, Parenzi, io ancora non ti ho offeso, Ma che non mi devi offendere. Vabbè, allora Giovanni, cosa ha da dire ancora? Voglio sapere. Vabbè, non è, lui ha risposto, non è di sinistra. Continui, vado avanti, Giovanni. Non è di sinistra. Vabbè, non è di sinistra, oppure è stato di sinistra, ma che gliene frega a lei? Ma non sono io e basta. Giovanni, ma allora? Ma veramente mi stai prendendo in giro? Giovanni, io tutte le sere ascolto. Vabbè, d'accordo. Adesso non vuole rispondere sulla sinistra. Quale, non vuole rispondere. Quale sinistra? Ma che gliene importa a lei di quale sinistra è Parenzo? Non è interessante catalogare le persone. Ma allora, scusa, allora lui, secondo il vento che tira lì se ne va. Non c'è una fede. Oh, Dio, Giovanni, non ha un partito di riferimento. Va bene? È contento? Non ha un partito di riferimento. No, non ha un partito di riferimento, mica è necessario, non è obbligatorio, Allora è nubabà, come dice da Napoli, è nubabà. Che significa nubabà? Se mangiasse un babà. Vabbè, se mangiasse un babà, ma lei è un cretino, Giovanni, scusi, glielo dico, lei è un cretino. Io sono un cretino, non ti ho offeso, Crucio. Beh, ho capito, ma che vuol dire uno babà? Non ti ho offeso, io non ho detto che Pisa e voi due siete cretini. Vabbè, ma la voce di Parenzo ti piace? La voce di Parenzo la somiglia un chirichetto, un travestito, ha una tonalità di che? Di un travestito, benissimo. Nicola D'Ascoli Picena. Nicola D'Ascoli. Molto bene. Nicola, buonasera, dica. Molto bene. Buonasera, andala in continuazione questa. Perché siccome sento sempre che il dottor Parenzo la critica perché ha votato Grillo. Ma il signor Parenzo la critica perché noi italiani non siamo abituati al fatto che votiamo un politico e rispetta quello che fa, che ha detto in campagna elettorale. Vabbè, ma che c'entra questo adesso? Scusi, male. Che no, cosa c'entra? Sentivo che prima che lui la critica sempre anche per il fatto della scorta che diceva all'inizio. Perché secondo me Grillo c'ha ragione, il fatto della scorta, che ancora dobbiamo pagare le scorte a Fini, dobbiamo a tutta sta gente che in pratica. Guardi, caro mio, la scorta non la decide il Parlamento, la decide qualcuno, la decide il Ministero degli Interni. Se ci sono dei presupposti, uno riceve la scorta, altrimenti no. Dovrebbero essere diminuite, può darsi, ma non decidiamo né io né lei né il Parlamento né Grillo, ha capito? Sì, volevo dire l'ultima cosa. Dica l'ultima cosa, su. A Parenzo, volevo chiederle se c'era un suo familiare, se era una di quelle vittime, se parlava così tanto bene di sto Mombasa giù, come si chiama, perché siccome lo sento sempre difendere. Ma veramente non ha mai parlato, non ha mai, Parenzo, non sta a me difendere Parenzo, ma non ha mai parlato di questo Cobobo, o come diavolo si chiama questo signore. Non ho mai fatto nessun elogio, ho fatto l'elogio del diritto, del nostro Stato di diritto. Ma io invece faccio, ma quale elogio dello Stato di diritto? L'elogio di una cosa che non funziona, hai fatto l'elogio di una cosa che non funziona. E ho paragonato il caso di quello che tu non chiami negro, ma che qualifichi come un assassino di colore, che qualifichi. No, io ho detto un assassino e basta. Il caso dell'imputato plurimiliardario. Ma che cosa c'entra? Ma cosa diavolo c'entra? Ma sei malato tu? Sei malato? No. E chiedo da Radio 24, faccio appello da questa radio libera, forte, indipendente, guidata magistralmente da Fabio Tamburini, faccio appello da questa zanzara magistralmente condotta da Cruciani, affinché l'onorevole avvocato Ghedini difenda l'uomo di colore assassino, come l'hai definito. Vabbè, tu devi difendere lui. Hai detto la stronzata. Felice da Milano. Tutti gli strumenti giudiziari. Allora nelle cause che hai davanti tu, fatti difendere dagli avvocati d'ufficio invece di fare i buffone. Felice da Milano. Felice nelle cause che hai tu. Tutti gli strumenti che ha utilizzato per difendere il miliardario Berlusconi. Benissimo. Ghedini, che è uomo di diritto, deve usare per questo imputato. Abbiamo capito. Felice da Milano. Lo mettete a tacere, per favore. Felice da Milano, col microfono. Felice, dica. Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo. Vorrei intervenire in merito al processo Ruby. Cosa c'è da dire su Ruby? Ma io voglio dire che come italiano prima di tutto mi sento sono spaventato del diritto che abbiamo in quest'Italia. In che senso? Nel senso che la Boccassini sta cercando di accusare, di condannare un libero cittadino, che poi sia il presidente dell'ex presidente del Consiglio o che sia il felice della situazione, su prove che non ci sono. Vabbè, secondo lei non ci sono, secondo la Boccassini sì, mi pare evidente, no? È inutile che lei ripete però delle cose scontate e ovvie. Lei sta dicendo che le prove non ci sono. Vabbè, è la tesi ovviamente della difesa di Berlusconi, mentre secondo la Boccassini le prove ci sarebbero. Mi siamo alla tautologia, stiamo ripetendo cose scontate, Felice, dica qualcosa di più originale, no? Qualcosa di più originale lo dico a Parenzo, lo dico a Parenzo, che lui è un umile servitore di una sinistra moralista che oggi non c'è più. Vabbè. Basta Parenzo a difendere sta gente che entra in Italia, che viene per delinquere. La gente che viene in Italia deve venire per lavorare e deve essere rispettata come cittadino. Il problema è che italiano. Come in tutti i paesi possono entrare anche dei delinquenti. In Italia diciamo che poi cacciare via i delinquenti è un attimino più complicato degli altri paesi. Restano e spesso fanno delle cose molto gravi come in questo caso. La zanzara stronza. Bene, abbiamo con noi caro Parenzo in collegamento da Bruxelles. Una delle persone più presenti in video negli ultimi tempi, chissà perché, ma forse lo scopriremo. Schulz è invitato. Come? Oh, finalmente, Schulz. Beh, Schulz è una bella figura istituzionale. Ma Schulz è mica in video, Schulz. Schulz è presidente del Parlamento Europeo, cosa c'entra, signor Schulz? Appunto, non sta in Europa, Schulz. È detto un deputato europeo. No, deputato europeo, sì, ma non è... volessi dare respiro e profilo internazionale a questa no. Schulz, hai fatto molto bene a invitarlo, bravo. Ma no, l'ho invitato Schulz. Allora avrei invitato sicuramente il grandissimo Daniel Cohn-Bendit, uomo di grandi nemmeno battaglie. No, nemmeno lui, ti devo deludere, no. Bravo, allora hai invitato sicuramente l'onorevole Sara Bellache. No, ti faccio sentire per presentarti la persona che abbiamo ospitato. Un suo scontro recentissimo scontro con il professor Cacciari. Ah, vabbè, ho capito allora. Capito, certo. Sì, hai capito. Cioè, il gesto di Ambrosoli io non lo condivido per nulla. Vorrei vedere se lei avesse avuto un padre ammazzato in quel contesto, con la complicità. Cacciari, su questo è Cacciari. Sentiamo un attimo Cacciari. Ma vogliamo scherzare? Ma che ragionamenti sono? Ma conosce la signora la storia italiana di quegli anni? Anche se è giovane, beata lei, può anche leggere qualche libro. Può leggere il libro di Gotto Oro. È con noi Lara Comi, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qui, eurodeputato del PDL. Ma ha cominciato a studiare la storia italiana come prescrive e come suggerisce il professor Cacciari, cara Lara? Ma a me spiace deludere Cacciari, ma la storia di Ambrosoli la conosco bene, anche perché poi è stato candidato in Regione Lombardia come presidente e giustamente... No, ma i libri abbiamo iniziato a leggere, come dice Cacciari, abbiamo iniziato a fare un po' di ripasso. Mi definiscono una sicchiona, quindi penso di averli letti e di averli studiati. Il mio discorso era molto diverso, cioè io partivo da un rispetto per una persona che ci aveva lasciato e quindi sono anche... Andreotti, convinta. Sì. Esatto. Sono anche convinta che il perdono, essendo cattolica, forse questo è il peccato che ho espresso l'altro giorno, il perdono per una parola e per delle frasi sbagliate che ha detto Ambrosoli, che ha detto in questo caso Andreotti nei confronti del padre, potevano essere perdonati. Senti Lara, ma come che personaggio è Cacciari? Come lo definiresti? Saccente? Ma educatissimo, non vi sembra educatissimo? Sciogliti un po', com'è? Un cafone, uno arrogante, saccente. Guarda, devo dire che è stato molto molto realista, perché all'inizio della puntata, che forse voi non avete seguito, io ho chiesto, dato che ha criticato mezzo mondo, perché ormai la funzione di Cacciari è quella di criticare il mondo, io ho chiesto a Cacciari che cosa di concreto avesse fatto in questi ultimi anni prima di criticare, e mi ha risposto con tanto onestà dicendo: oggettivamente 20 anni che faccio proposte ma nessuno mi ascolta. Ma questo dove? Fuori onda? Fuori onda questo? No, assolutamente. Ah, durante la trasmissione? Sì, io gli ho detto, si faccia un po' di domande, se nessuno lo Parenzo, un'altra teoria su Cacciari, no? Qual è? Ah sì, sentiamo. Sì, la teoria è che ogni volta che propone qualcuno, com'è Parenzo? No, infatti è che ogni volta che lui candida o propone qualcuno nella sua grande visione, però poi alla fine non si realizza mai, cioè c'è un buco pazzesco, però le sue teorie sono talmente avanti che o si realizzano 30 anni oppure dopo, oppure indietro, chissà. Oppure vabbè, non c'è mai un cazzo. Ma è un po' arrogantello Cacciari, come no? Come no? Sì, assolutamente no. È arrogante, è arrogante. Ma è maleducato. Aspetta, professore. Maleducato. Professore? Ma di cosa parlate con la signora Comi? Non ha mai letto neanche un rigo di Feuerbach. È una monade, una monade. Ma una no, monade, ma scusi, professore. Ma no, professore. Ma è una monade, è una brava parlamentare del Parlamento Europeo. È stata ma anche. Ma quale Parlamento? Ma non sa neanche chi è Altiero Spinelli, che io conosco. Ma quello lo saprà. Ma non ha neanche idea di chi sia Spinelli. Ma vi rendete che il gruppo del coccodrillo, pensa che sia un ristorante la signora Comi, il gruppo del coccodrillo, vi rendete conto o no? Va bene, grazie, grazie. Vabbè, insomma, grazie arrogante. Cacciari, a presto, le dico anche coglioni. La sala che abbiamo qui in Europa e tutte le altre dedicate. Arrogante e maleducato, si può dire dunque arrogante e maleducato. Vabbè. Io dico più maleducato, dall'altra parte non è in grado anche di ascoltare le persone, quindi non so come faccia bene ascoltare i propri alunni, così professore. Sai cosa hanno scritto della Comi? Tante cose negli ultimi tempi. Ma Lorenzo, me ne ha scritte tante, vediamo, ma posso vedere? No, questa qua non è male. Il paragone che faccio sempre, Lorenzo, è con Robocop. Perché sì. È un po' Robocop, perché siccome le critiche le scivolano un po' addosso, cioè arrivano le critiche, lei sembra che le rimbalzino addosso, anche quelle più feroci, no? Anche qualche gaffo. Che il romano me rimbalza, ve lo ricordate? Me rimbalzano, gli rimbalzano le critiche. Allora, Lia Celi ha scritto una cosa. Se sono costruttive le accetto volentieri, se sono invece delle critiche come quelle di Cacciari, assolutamente no. Allora, Lia Celi ha scritto, l'ho già detto e confermo, Lara Comi sembra una retrocopertina di Diabolik. Sai le retrocopertine diaboliche dove c'è come sempre no, una sì. Donna, no? Una donna tutta, sì, sì, come no. Tutta diciamo, ben pettinata, eccetera. Ma lei è mai stata sì, una... Sì, ma non è scollata anche quella, io non sono mai scollata. Ogni tanto è scollata, sì, può darsi di ma sì. Ma quando mai? No, tu, non tu, non tu, le copertine. Ah, ecco, ecco, se la Comi ecco, ma considerata... perché non ti sei mai, non ti, qualche volta non metti qualcosa di più di più sexy, ecco. Beppe, quando mi inviterai a cena con Parenzo, metteremo qualcosa di più. Vabbè, con Parenzo. Ma io che faccio? Il terzo cameriere? Che vuol dire con Parenzo? Con Parenzo. Ma che faccio io? Il cameriere? Ah, oh, ma che beh, siete no, male? Scusa, è Beppe che ci serve, David. Ah, ma sono che è io più che bello servo. Secondo te? Che oddio, è più affascinante? Adesso attacca. Più affascinante. Adesso al di là, lascia perdere il fisico perché quello per te non conta. Da un punto di vista così, chi ha più fascino, più charm? Tra chi? Cruciani, Parenzo o Berlusconi? Ma che... Scusa, non ho capito. Cruciani poi mi hai detto? Parenzo o Berlusconi? Parenzo o Berlusconi? Berlusconi, senza ombra lo sapevo. No, beh, non è... Senza ombra di dubbio ha uno charm e un cuore da leone che voi ve lo sognate. Beh, cuore da leone addirittura. Cuore da leone. Ma la Boccassini lo vuole morto, secondo te? No, spero di no. Cioè, nel senso fisico, nel senso politico sì. Vabbè, senso politico lo dicono tutti. Nel senso fisico mi auguro di no, sennò sarebbe veramente una però, donna. Però, come dire, questo processo potrebbe avere conseguenze anche sulla salute di Berlusconi, secondo te? No, proprio perché ha un cuore da leone, no. Che nessuno, secondo me, sarebbe mai riuscito a resistere effettivamente 20 anni di attacchi costanti della magistratura. 20 anni. 20 anni, cioè, ha un cuore pazzesco, un cuore ha pazzesco. Un cuore pazzesco, in più poi lo colpiscono col treppiedi, lo colpiscono con la statuetta e rimane sempre in piedi. Ed è ancora vivo, ma a chi assomiglia un po'? Cioè, statuetta. Siamo qui la Zanzara 800240024 con Davide Parenzo, ovviamente sul torpedone, immagino, no Parenzo? O no? Beh sì, come al solito, a contatto col paese reale, sì. Il paese che lavora, certo. Quello che si muove con i mezzi pubblici e non con le macchine blu. Quel paese che la casta non la detesta perché comunque è forza sobria, forza tranquilla, gente non violenta, sì. Gente che lavora, gente che torna passamene a casa. Uno, su, famiglie. Passamene uno, dai. Beh, però mi sono messo in fondo per non disturbare perché mi hanno fatto stai zitto prima. Ah, chi è che non ha detto stai zitto? Chi ha osato dire stai zitto? No, adesso parla piano perché la stanno ascoltando dice l'autiere, sì, l'autiere quello sì, che, solito autista, quello sì, che sa che siamo a bordo di questo torpedone, di questo, sì, è la solita però, compagnia che ormai è praticamente sull'orlo del fallimento perché non fa più un euro, no? No, no, no, no, no, se mi chiudono questo io sono rovinato, perché con 20 euro io mi faccio Siena-Roma, capito, con 20 euro. Pensa che poveraccio. Questo, ma fatti venire a prendere da Lara, suggerisci qualcosa a Parenzo, no? Invece, a cavallo! Invece del torpedone tra Siena e Roma, un'auto blu, una l'affitto, ma di una macchina, quanto costa? Costerà poco, dai, su! Cioè. No, ma non lo vedo veramente su un cavallo bianco lì che arriva nelle bellissime località vicino a Siena. No, mettetemi a disposizione l'auto blu di Fabrizio Cicchitto e io faccio Siena-Roma con l'auto blu di tanto... Guarda, se vuoi ti diamo uno di quei pulmini del Parlamento Europeo che ci portano, come sì, avete ben visto anche voi, assolutamente, persona. Sì, assolutamente, ne abbiamo utilizzati, li abbiamo sfruttati alla grandissima, soldi pubblici sfruttati dalla Zanzara. No, allora, ma assomigliamo un po' al pulmino che hanno utilizzato i ministri per andare un po', è alla vero, Bastia. Sì. Allora, devo dire una cosa, che da quando ho detto dell'invito a cena di Lara Comi, mi hanno scritto decine di persone, tra cui un amico che si chiama Boris Sollazzo, che è pazzo di Lara Comi, dice che la ama di un odio, no, anzi io voglio venire a cena e che l'amiamo di un odio feroce, ma chi l'amiamo di un odio feroce? E viceversa. Ma quindi Beppe, tu sei il cameriere, non ho ben capito. Ma non ho capito, non ho capito nemmeno io. Ma che cosa ci stavi raccontando di Berlusconi invece? No, vi racconto invece una chicca. Ma è un po' Ercolino, com'è che resiste a tutte queste cose? Come lo possiamo soprannominare? Resiste... non lo so, prima ve la racconto, poi identifichiamo sì, come chiamarlo. Allora, a Brescia, dato che ero anch'io a quella manifestazione... vabbè, questo lo diamo per scontato. Certo. Il presidente, dato che il clima, come avete potuto notare da tutti i video, era un clima molto molto acceso, sì, al presidente gli è stato detto: presidente, forse è il caso che lei metta il giubbotto antiproiettile, sì, per salire sul palco, perché poi c'erano anche delle abitazioni con delle finestre, insomma era veramente una situazione un po' particolare. Il presidente ha detto: no, assolutamente no, io vado sul palco senza giubbino antiproiettile e sfido chi mi vorrà in questo modo del male. Cioè, non ho capito, sì, avevano suggerito a Berlusconi di mettersi, sì, il giubbetto antiproiettile? Sì. Ma quando? Una cosa pazzesca, scusa. Ma com'è possibile questa cosa? Per motivi di sicurezza, quindi il clima non era assolutamente tranquillo, quindi poteva essere qualsiasi rischio. Cioè, chi non ha vissuto veramente Brescia non può capire com'era la situazione. Quindi direi che è un cuor da leone doppio, cioè nel senso, perché ha rifiutato il giubbino antiproiettile, dice, cioè, ha messo il petto a disposizione. Non so quanti sarebbero saliti sul palco in quelle condizioni sapendo i rischi. Ma no, ma in realtà l'ho letto da qualche parte, da qualche parte, sì. Simpaticamente poi alla fine ha detto: se dovessero uccidermi almeno venite tutti al mio funerale. Vabbè, per questo dunque lo paragoniamo a chi? Ma questo a maggior ragione un doppio cuor di leone. Ma senti, tu sei mai andata a una cena elegante di Berlusconi? Politiche sì, perché le cene eleganti erano anche cene politiche, cioè quelle che facciamo come cena di raccolta fondi a volte si facevano ad Arcore, o poi c'erano delle cene che si sono fatte anche in alcuni ristoranti. Ma tu ci credi che c'erano queste doppie cene, alcune istituzionali dove poi tutti andavano a casa e poi invece le cene un po' più erotiche, ci credi o no? No, assolutamente non ci credo, e come ha detto anche il presidente, ma tanti altri testimoni, erano cene tranquille, eleganti. Alcune, altre pare che invece no, altre pare che fossero. Ma invece... le ragazze che hanno partecipato hanno detto che erano cene eleganti. Dunque, per esempio, lo speciale di Canale 5 è stata una cosa fantastica, ha fatto vedere la verità, secondo te? Ma allora, lo speciale di Canale 5, io l'ho visto l'ultima parte, dove appunto c'era l'intervista di Berlusconi, sì, e devo essere onesta, ha fatto bene a fare uno speciale di questo tipo. Perché? Perché se noi guardiamo quasi tutti i talk show, avviene un processo mediatico costante, quindi c'è una sorta di contraddittorio. Stavolta il presidente Berlusconi ha aperto le porte della sua casa e ha fatto vedere ai cittadini che non hanno partecipato a queste cene eleganti dove erano esattamente i luoghi. Vabbè, ho capito, i luoghi ha fatto vedere, cioè non è che ha fatto vedere come si svolgevano, poi ha dato la sua versione, ha fatto vedere il posto dove si svolgevano, alcuni dei posti dove si svolgevano queste cene, punto e basta. Scusa, gli altri che fanno, dato che non c'è nemmeno una prova, che cosa dovevano fare? Ma ho capito, ma ha fatto un'operazione verità secondo te con questo speciale? Ha fatto un'operazione, secondo me, sì, verità, nel momento in cui tutti gli altri, ogni 3x2, pagine e pagine di processo mediatico. Cioè, mi sembra assurdo, una volta ogni tanto ha parlato ai cittadini di questa situazione, in modo molto tranquillo, a casa sua, ad Arco. Senti, ma hanno insultato anche te a Brescia? Sì. E che ti hanno detto? Ma non posso dire che gli insulti soprattutto erano riferiti alle donne del PDL. E a te che cosa dicevano, per esempio? Ma non è carino, ripeto. No, ma come non è carino? Ma qui abbiamo sdoganato tutto. Sì, ho capito, avete sdoganato tutto, però immaginatevi il vocabolario... No, ma una cosa in particolare che ti ha colpito, qual è? Mi hanno attaccato sulla mia aspetto esteriore, quindi... E che ti hanno detto sull'aspetto esteriore? Che... Sì, no, ma non mi hanno attaccato sul lavoro che svolgo. E che ti hanno detto? Ci sarà stata una cosa? No, brutta in guerra. Io le trasformo in modo educato, mettiamolo in questo modo. E qual è? Brutta, inguardabile. Ma brutta, inguardabile. E che cos'era brutta? Cesso, che ti hanno detto? Sì, cose più o meno del genere. Cesso inchiavabile. Cose più o meno di questo tipo. Vabbè, ma se c'è gente. Ma hai avuto paura? Allora, paura no, devo essere onesta, ma ho avuto una brutta sensazione, cioè di non aver più la libertà di poter manifestare. Addirittura. Sì, perché non è possibile trovarsi in una situazione in piazza a Brescia, in una piazza particolare, e non aver più la possibilità di esprimere una propria opinione se non continuamente fischiati, violentati, e addirittura una persona anche picchiata. Perché difendeva degli anziani che erano simpaticamente arrivati con le bandiere, e il gesto più brutto che mi è speso è la bandiera bruciata. La bandiera bruciata. Però se lei avesse di fronte la Boccassini... quando vede la Boccassini in televisione, eccetera, cosa pensa esattamente? Cioè, il primo pensiero che le viene quando vede la Boccassini in televisione? Perché ce l'ha così tanto con Berlusconi? Vabbè, ho capito, questo è scontato. No, non è scontato, è il primo pensiero che mi viene, perché da un processo senza neanche una prova, senza che ci siano delle vittime, non trovo il colpevole. Ma scusa un attimo, ma è vero che Berlusconi dorme poco a causa dei processi? Scusa, non ti ho sentito. È vero che Berlusconi dorme poco a causa dei processi? Ma allora, lui su questo l'ha detto anche a Brescia, cioè nel senso che comunque questo dà delle preoccupazioni, dà delle notti insonni, perché comunque non è la paura, secondo me, del processo in sé, è il fatto di questo accanimento veramente... Cioè dorme poco, dorme poco. Lui già di suo ha sempre dormito poco, questo lo sappiamo, è una cosa rimasta. Però io voglio sapere tutta la verità, nient'altro la verità. È vero che Monti, tu devi sapere questa cosa, Parenza, è vero che Monti ti chiese di andare con lui? No. Ma dai, su, è vero, lo sanno è tutti. È vero che conosco Monti, che al Parlamento Europeo è una cosa vera, prima ancora che... Ma è vero che ti chiese di passare con lui, ma è mica un delitto. Diciamo una cosa diretta. No, io ho ricevuto proposte anche da altri partiti, ma sono rimasta assolutamente... Appunto, ma quello che ma sei rimasta... può essere un partito, può essere un altro, può essere quell'altro, cioè ce ne sono... E qual è l'unico? È l'unico, è quello? No, non è vero, ce ne sono molti di partiti in Italia. Ma tu nelle sale sotto che sono state fatte vedere da quel filmato, ci sei mai stata? Sì, ci sono stata una volta a vedere la partita del Milan, che è quella sala video. Ah, la sala video a vedere la partita del Milan. Ma non c'era anche il palo? Un bellissimo maxi schermo. Sì, il famoso palo della lap dance c'è. Ma il famoso, che fine ha fatto? Ma non c'è nulla, ma ragazzi. Ma non c'è nemmeno il palo della lap dance, dai, su. Ma no. Ma come no? Però Parenzo a casa lui ce l'ha. Vero, David? Che cosa c'ha? Il palo della lap dance? Ma figurati, Parenzo. Guarda che dell'esistenza del palo della lap dance parlano le ragazze nelle intercettazioni telefoniche senza sapere di essere intercettate. Secondo lei è verosimile pensare che quel palo sia stato spiegato da qualcuno? Però attenzione alle intercettazioni, perché anch'io parlo con un amico, ci ridiamo e scherziamo, cioè a volte... Però scusi, signora Comi, io vorrei sapere una cosa, ma perché lei... Allora, che sei signora Comi, quindi no, vuol dire alterno. Che sto facendo una domanda. No, ma alterno le cose, però allora Lara, ma perché sei sempre in televisione? Ma hai l'autorizzazione di Berlusconi ogni volta che vai in televisione lo chiami? Non sempre, nel senso che a parte che il fatto di essere in televisione non implica che io non sia sul territorio, anzi non ho non è importante specificare. Beh, no, è importante perché vabbè, ma nessuno che vado in televisione e non lavori mai, invece come voi ben sapete mi avete visto all'opera è diverso. Il presidente su questo è informato di quando vado in televisione. Cioè gliel'hai chiesto una volta, vado in televisione, sbaglio, proseguo, vado avanti, lui come dà risposta? Ma io chiedo consiglio a lui anche su un aspetto sia politico, perché comunque non sono nella direzione nazionale del partito. Quindi vabbè, cosa dice? Che funzioni, che vai bene, che puoi andare avanti, che è giusto andare così tanto in televisione? Perché sei uno di quelli che va di più in televisione, anzi le tue colleghe sono anche un po' gelose, diciamo la verità. Veramente? No, questo non lo sapevo, non mi è giunta questa notizia, mi sembra molto strano, anche perché io onestamente se una mia collega va in televisione mi fa piacere, perché comunque rappresenta sempre il mio partito, no? Però lo sai un po', lo sai che le altre sono un po', no? No, non lo so, me lo dici tu, si vede che sei più informato di me, a me sembra molto strana questa... Ma ci siamo fidanzati finalmente o no? No, ma scusa, non è appena arrivato quel messaggio. Magari quello potrebbe essere il mio prossimo fidanzato. Cioè, sei single? Sei single? Sì. Sei single? Sì. Come lo sai ogni tanto, come dice, ho una frequentazione, un'espressione utilizzata dalla signora Comi. Ho una, capito? Ho una frequentazione. Vabbè. No, sono felicemente single. Anche perché, scusate, quale uomo mi sopporta con una vita così che faccio? Che sono a destra, a sinistra? Ah, ecco, questo è vero. Cioè Milano, Roma, Bruxelles, è un casino, Mantova, è un casino. Varese. È un casino. Grazie. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi... Maria Pia da Bologna, buonasera. Maria Pia, buonasera, signor Cusciani. Ho l'orecchio che mi si affusa a forza di aspettare. Vada. Senta, ma volevo dire, ha finito di raccontare le favolette la signora Comi? Sì, meno male. Ecco, volevo dirle che per una volta, signor Cruciani, sono d'accordo con lei, perché bisogna ricordare, a proposito del fatto di Cabobo, ecco, che bisogna appunto ricordare che esiste anche un razzismo all'inverso, vale a dire che il nero... Qual è il razzismo? Non ho capito. Eh? In questo caso qual è il razzismo all'inverso? Non ho capito. Ma razzismo, insomma, voglio dire, non so, ha spaccato la testa a tre bianchi... non perché è razzista, però scusi, è perché è matto, perché ha incontrato solo i bianchi sul suo percorso. Non lo so. Se c'era un nero, gli staccava la testa pure a lui. Guardi. Ma non lo so. Ad ogni modo, è molto. Vabbè, questa molto, del razzismo, al contrario, mi sembra una stupidaggine. Loredana da Milano, buonasera, Loredana. Loredana? Mi sente? La sento, buonasera, dica. Buonasera. Loredana. Allora, salve ragazzi. Salve. Sono d'accordo con il deputato di Scelta Civica. Sì. Quell'uomo lì, per esasperazione, non tanto per disperazione, per esasperazione ha dato di matto e ha fatto quello che ha fatto. Ma quale esasperazione? Ma basta con questa roba. Dirò di più. Ma esasperazione di cosa? Quale esasperazione? Perché era praticamente uno sbandato ed è per questo che uno ha preso l'accetta e ha ammazzato tre persone, ma su, per dai, l'esasperazione del tipo di vita che ha condotto fino a quel mai? Punto. Ma dirò mai? Di più. Coesasperato come lui ci sono tutti gli africani e alla base di tutto ci sono le famose multinazionali occidentali che vanno in Africa a portar via tutto quello che c'è senza lasciare niente adesso... a chi viaggia. Adesso mettiamo sotto quelli processo le multinazionali perché sono morte per tre persone, dai su. Però in Italia la gestione di queste persone è fatta male per non dire che non c'è proprio. Vabbè, ma lei sta delirando. Santina da Palermo. Sono io quella che vi ascolta di notte con comunque due nelle orecchie e poi mi sogno Cruciani e faccio i sogni erotici con Cruciani. Beh, no, questo abbia pazienza, cara Loredana. Questo sono affari, tante cose che questo sono affari a fare. Questo sono affari suoi, cioè, sì, certo. Pazienza, Tra le tante cose che riuscite a fare con la vostra trasmissione, sì, anche questo le vostre ascoltatrici. E ho poi, capito, questi sono affari suoi, non ci posso fare niente. Ascolto Radio 24 24 ore su 24, si può dire H24. H24, ecco, però non in tutte le trasmissioni si parla di eiaculazione precoce. Com'è ma che nella vostra si fa? Quella è la pubblicità. Sì, certo, è pubblicità e è una trasmissione ascoltata da molti uomini. Non mi dica che si eccita anche per questo, signora Loredana. Come? Non mi dica che si eccita anche per questo. No, no, no, no. Che comunque so, è lo spot una... dell'eiaculazione precoce, che ne so, Loredana, tutto è possibile. È tutta, va bene, va bene, va bene. Comunque nella vita tutto è possibile. Quel ragazzo lì ha dato di matto per esasperazione e ad ogni modo in Italia non c'è una buona gestione, non c'è per niente una buona gestione, vabbè, di questi immigrati. Vado da Santina, da Palermo, buonasera. Pronto, buonasera. Cruciani. Vada, vada. Lei è un personaggio incredibile. In che senso? Lei, scusa, è una persona... Guardi, io l'ascolto tutte le sere tornando a casa, sì, e lei riesce a farmi veramente salire la pressione a 3.000, perché, sì, una persona che gestisce come lei una trasmissione fatta di gente che interviene solamente per dirle quanto è pezzo di stronzo, mi scusi la franchezza, sì, è veramente una persona a suo modo grande. Perché la sua è una trasmissione che ha delle sfaccettature interessantissime. Allora... ma altre sfaccettature, quando lei tronca così, e allora, e perché non chiude, e perché non mi cambia, perché no, qua, questo lo perché sta dicendo là, lei adesso. No, no, io l'ascolto parecchie sere, da un lato mi aiuta ad arrivare a casa dopo una giornata veramente estenuante di stanchezza, sì, dall'altro lei suscita in me veramente l'incredulità, cioè lei riesce a gestire una trasmissione ascoltando degli italiani a volte disperati, tipo quel tizio che lei oggi ha citato, Marco, che se la pigliava con Parenzo, che le fa assolutamente da spalla, e che mi creda, lei poco fa chiedeva ad un radioascoltatore cosa ne pensava di Parenzo, ma Parenzo, mi ascolti, è una persona che dopo averla ascoltato due o tre volte sta sulle scatole, nel suo interesse. Bene. Visto che lei comunque è una persona secondo me intelligente, sì, un po' alla berlusconiana, anche questo un po' alla berlusconiana, tipo, sì, perché lei inizialmente faceva il lecchino di Berlusconi, molto bene, sì, adesso invece io ho visto in lei ultimamente un cambiamento che quasi quasi sotto certi aspetti esalta Grillo. Io le volevo dire una cosa, ah, io sono una lavoratrice, sì, una mamma che lavora, sta e che dà veramente, sì, tutto il giorno, ho la fortuna di lavorare, sì, ma sono una libera professionista. E allora? Ho una fetta di popolazione nel mio studio, e c'è talmente tanta di quella gente disperata. E allora? Che se il tizio Bogdan, là, come si chiama, Cabobo, ha preso l'accetta e ha ammazzato tre persone, sì, non è condivisibile un atteggiamento simile, è assolutamente condannabile. Ma no. Ma sono d'accordo con la signora che è un atto di disperazione, la disperazione di un qualsiasi individuo, sta a far comizio, non questa, di Valenza, un ganese o di, sì, un siciliano o di un palermitano o di un... ma di una persona disperata che alla base probabilmente, sì, ha l'unica condizione di, sì, non poter sfamare i propri figli. Allora io le dico, sono una libera professionista, ma se non dovessi avere la possibilità di sfamare i miei figli, sì, non ucciderei perché non è nella mia indole. E che faremo? Ma non lo so cosa potrei fare. Bene, potrei, Santina, rubare, potrei prendermi un'arancia, potrei prendermi una cosa. Lei il problema non se lo pone. No, lei, per il momento no. Né il Parenzo, ma noi stiamo vivendo un momento politico talmente grave che un Grillo che io ho votato, ma che non mi rappresenta perché non è un politico, ma è solamente un tizio che probabilmente, sì, ha guadagnato tanti di quei soldi, ma chi? Ha pagato le tasse, Grillo, sì, e non mi può rappresentare, Renzo, ma chi è questa come qua? Politico. Chi è questa qua? Probabilmente una che a lei starà sulle scatole e che adesso mi stressa, mi chiude. Ma è 4 minuti che parla in defessa facendo una specie di comizio, Santina, grazie. Il barone Colucci, voglio parlare di nuovo del mitico barone Colucci. Senti qua, no, in un comizio favoloso a Monopoli, divertiamoci un po' che mi sono rotto i coglioni negli ultimi 20 minuti, no. Mi sono rotto il cazzo. Il barone Colucci, io voglio sempre il barone Colucci. Mi hanno fatto vedere negli intorni del territorio cittadino masse di rifiuti abbandonati da anni. Mi hanno fatto vedere nel centro storico gabinetti rotti, sfasciati e mai puliti. Vergogna! Ma come parla il barone? Tipo Mussolini. Beh, è un grande il barone Colucci. Mi dicono che abbia tra l'altro una specie di zoo a casa. C'è uno zoo con dei privato con tantissimi animali. Una cosa pazzesca. Ma scusa, senti, ma non ho capito, ma... senti questa cosa del barone. Vi voglio dire che lotterò sempre di più ove diventassi sindaco di questa città per cambiare. L'invidia è assai a Monopoli, ma me ne frega un cacchio perché ti fa... Io vincerò e voi andrete a finire tutti nel baratro! Barone, barone Colucci, vincerò sull'invidia e voi nel baratro. Poi a un certo punto senti l'ostaggio, no? Senti come parla, mitico. Nel mio programma è scritto chiaramente di chiamare le imprese ed invitarle ad assumere regolarmente dei giovani diplomati perché possano fare almeno il tirocinio, lo stage, almeno loro si sentiranno utili, faranno il corso di apprendistato e successivamente se le imprese avranno bisogno le potranno assumere regolarmente. Hai capito il barone? Ma come parla? Ma sembra Mussolini, sembra. L'ho già detto questo, veramente. Io vincerò e voi andrete a finire tutti nel baratro! Andrea da Bologna, buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Dica. Volevo fare una domanda a Parenzo, sì. Riguardo Primi. Lui ha detto che era ben contento che i carabinieri, la polizia non l'avesse ucciso, questo che si è arreso lasciando l'arma in sicurezza per terra, giusto? Sì. Se fosse successo davanti alla Knesset e quelli dello Shin Bet, secondo lui cosa avrebbero fatto? Ma è una roba vecchia ancora, questa storia di Preiti che non è stato ucciso, la polemica di Sallusti, eccetera. So, ancora con sta storia, ancora con sta storia. Sono riuscito a parlarmi, volevo sapere cosa ne pensava Parenzo. Parenzo, rispondi, su. Ma perché bisogna fare cose con la muffa? Perché tira fuori cose che hanno la muffa, la puzza della muffa, tira fuori storie con la muffa, basta. Modernità, attualità, non muffa. Pasquale da Firenze, buonasera Pasquale. Buonasera, buonasera Parenzo, a lei, a Dottor Cruciani. Volevo dire una cosa sul processo Berlusconi. Sì, che c'è? No, nulla di particolare. Io mi trovo molto d'accordo con la Bocassini, quasi in tutto. Però c'è qualcosa che mi turba della Bocassini. Cioè, al di là del fatto che è l'unica che ha le palle per insomma trattare male il signor Berlusconi. In Italia, ebbene, gli altri non ce l'hanno, gli altri sono in grado di dire che è un patriota perché va sul palco con un senso giustino antiproiettile, cioè altre persone che fanno dalla mattina alla sera lavori ben più. Ma io non ho capito nulla di quello che lei sta dicendo, ma perché io non capisco qualche volta? Lei, vabbè, per lei, guarda, per lei la Bocassini, per lei la Bocassini. Capisce anche lei, no, guardi, ma... non bisogna fare un grande sforzo di mente. Ma non ho capito nulla, lei pensa... Allora, guardi, due parole, sono d'accordo con la Bocassini. Vabbè, è d'accordo con la Bocassini. Una situazione ma che è abbastanza strano essere d'accordo con un magistrato che è un PM che accusa, cioè bisogna essere un po' perversi. Io sono d'accordo, posso essere d'accordo, d'accordo. Bene, lei può essere d'accordo con la Bocassini. Io sono d'accordo, appunto, d'accordo. Vabbè, bravo, le piace la Bocassini, se ti piace così nella vita. Sì. Abbia pazienza però, se lei non riesce a parlare alle persone. Sì, no, ma io riesco a parlare, è lei che si spiega, però lei che no, si spiega male. Sto spiegando perché non c'è bisogno no, di non si capisce nulla. Se non si capisce nulla è lei che non capisce nulla. Vabbè, le piace, siamo arrivati alla sintesi, le piace la Bocassini, numero uno. Seconda parte? La seconda parte, c'è una cosa che mi turba della Boccassini, sì. Cioè l'aspetto di pubblicità che sta assumendo questo processo, la perché pubblicità. Al di là del fatto che sia Berlusconi il soggetto, non mi piace, se fosse mia sorella Rubi mi incazzerei, questo è l'unico elemento, perché questa persona... Se fosse mia sorella la Ruby, sì. Io mi incazzerei, perché questa persona sarà additata comunque come una prostituta. Ma se quella pensa che sia una prostituta... Non lo deve dire, perché è una minorenne nel momento in cui tutto scusi, ciò avveniva. Ma scusi, abbia pazienza. Bene, abbia pazienza. Ma se quello, prego, ma se il processo è centrato sul fatto che Ruby è una prostituta... Ma ho capito, ma crolla tutto, se no, no? Bene, perfetto, però lei è una minorenne, quindi almeno il pudore... Ma quale pudore? Quello fa il PM! Quale pudore? Non me moleste moschito. Non mi molesti moschito. Giudi per quanto è successo, ci mancherebbe che noi siamo qui a difendere, perché chi è che ammazza la gente non ci passa neanche per anticamera del cervello. Però le provocazioni non le accettiamo. La Lega ieri, perché non hanno mai preso provvedimenti per sgombrare da quella zona? Sgombrare quella zona, per sgombrare quella zona dove sanno che ci vive della gente disperata. Vivo qua in zona da diversi anni. Cioè, posso dire che effettivamente la sicurezza non c'è. Questo allora, erano voci da un quartiere di Milano, dove ci sono alcune manifestazioni politiche. Non si capisce perché le manifestazioni politiche debbano essere delle provocazioni per forza. Poi i cittadini fanno bene a incazzarsi con i politici che non fanno nulla. Però perché le manifestazioni della destra sono delle provocazioni o sfruttare quello che accade, invece altre manifestazioni sono... Non si capisce. Non si capisce perché un brutale caso di cronaca nera si trasforma in una gazzarra politica. Non è solo cronaca nera, lo vuoi capire o no? Non è solo cronaca nera, la vostra lo dice a qualcun altro, perché io non ho nessuna bandierina, al massimo ce l'hai tu la bandierina. Io non ho nessuna bandierina, è politica, è un caso del genere, diventa un caso politico, è normale che sia così. È un caso politico perché le forze politiche vogliono farlo diventare tale. Vabbè, invece non è un caso politico. Benissimo. Uno che, ti ripeto, un signore che è arrivato in Italia con un barcone clandestinamente. Come te. No, ma smettila, ma non c'entra nulla, devi smettere di fare il buffone. Qui c'è un caso molto semplice. Ma falla finita. Togliete la linea, perché non voglio parlare. Allora, una persona che arriva in Italia clandestinamente su un barcone. Dopodiché viene, fa richiesta di asilo politico, chissà chi la fa, perché pare che non sappia né leggere né scrivere, comunque fa richiesta di asilo politico. Dopodiché questa richiesta di asilo politico viene bocciata. In Italia però si può fare ricorso chissà fino a quale grado di giudizio, e da quel momento in poi entri in un limbo in cui non ti può cacciare nessuno, nemmeno se ammazzi 10 persone, cosa che poi è successivamente accaduta. Dopodiché che cosa succede? Che questo qua va in un CIE, da cui scappa con una rivolta contro la polizia. È arrestato per furto, va nel carcere di Lecce, dove devasta così en passant la cella di un vicino. Benissimo. Decaduti i termini di carcerazione, esce libero. Clandestino, domanda di asilo bocciata, in carcere, termini scaduti, è libero di fare quello che vuole sul suolo italiano. Secondo te questo qua è normale oppure no? Oppure la legge è giusta? Rispondi a questa domanda. È una legge corretta? Funziona tutto bene o no? Rispondi se hai coraggio. Sono gli stessi, sì, ti rispondo così, in 30 secondi. No, non lascia perdere la politica, è una legge corretta o no? Quelli che fanno la gazzarra sono gli stessi. Ma non è, a parte che non è solo la politica che l'ha trasformata. Gli stessi. Vabbè, come al solito non sai rispondere. Tu non sai rispondere, dai. La legge che regola il flusso di clandestini. Non sai rispondere a quello che ti ho detto. Io ti ho chiesto un'altra cosa. È normale o no che questa persona sia sul suolo italiano? È normale oppure no? Rispondi. Sì, benissimo, bravo, applausi per Parenzo. Secondo lui il signor Cobobo era normale che fosse sul suolo italiano. Benissimo, abbiamo accertato. David Parenzo sostiene che è normale. Lo lascia perdere, io non sto dicendo. Certo che benissimo. Aveva il diritto di rimanere sul suolo. Aveva il diritto di rimanere sul suolo italiano, secondo te? In base alle leggi che ci sono. No, dimmi la verità, dimmi la verità. In base alle leggi. Lascia perdere, secondo te ha tutto il diritto di rimanere sul suolo italiano? In base alle leggi che ci sono, certo che sì. Benissimo, bravo, altri applausi. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Questo adesso che c'entra, un'altra cosa. Ma perché bisogna mettere questa cosa qui adesso? Calma, tranquillità, serenità. Dunque, per David Parenzo, il signore, non lo chiamo nemmeno ghanese né di colore, che ha trucidato tre persone con un'accetta, con un'ascia, non so con che cosa, a Milano, ha tutto il diritto di rimanere sul suolo italiano. Benissimo, aveva tutto il diritto in di rimanere. Base alle leggi, no, ma le leggi sono votate, giuste o sbagliate secondo te? Le leggi sono fortemente da modificare, come no, ma lascia perdere, non fare il politico. Sono giuste o no queste leggi? Assolutamente no, io ad esempio non credo che i centri di permanenza temporanea siano dei posti umani in cui devono stare. Ah, benissimo, dunque ancora più libertà, benissimo. Uno che arriva, uno che arriva da clandestino va cacciato dall'Italia o no? Penso che uno che arriva clandestino va cacciato, sì o no? Lascia perdere, ti faccio delle domande. Ti sto facendo delle domande. Va cacciato o no? Benissimo. No, non va cacciato, no. Bene, quando, no. Quando fai no, va accolto, va tenuto in libertà senza controllo, senza nulla. Se hai il diritto di rimanere sul suolo italiano, perché se è un perseguitato politico ha molto benissimo diritto di rimanere sullo suolo italiano. Benissimo, se uno fa domanda chissà come di asilo politico, successivamente gli dicono di no, ha diritto a rimanere finché chissà quale organo decide la sua addirittura. Se la legge che c'è prevede. Ma non perché dici se la legge, quello che pensi tu, hai un pensiero o no su questa roba? Hai un pensiero o no? Io penso che debba rimanere perché devono essere fatti gli benissimo, accertamenti, bravo, perché il rischio che bravo questa persona provenga da un paese dove c'è la guerra, dove c'è un perseguitato Davide e Giuseppe, sì. vi voglio bene. Ecco, Flavio Vento è con noi, buonasera. Zagrebelski, buonasera, non c'è, bene, Andrea da Trento. Era Zagrebelski quello, io vi voglio bene, Zagrebelski. Andrea da Trento, su. Buonasera. Dica. A parte il fatto che su 60 milioni di abitanti in Italia, secondo me, a parte Parenzo e altri due, tutti penserebbero che la legge è sbagliata. Che no, ma secondo Parenzo, anche se siccome la Germania nazista deportava gli ebrei c'era scritto ed era scritto nella legge, allora siccome legge lo prevedeva la legge, allora no, va bene, capito? La stessa cosa. No, roba agghiacciante. Paragone inaccettabile. Ma come paragone inaccettabile? Paragone è vero. Paragone quando uno entra in Italia e chiede asilo, e già ci sarebbe da discutere su questo, uno entra in Italia e chiede asilo politico da un paese che evidentemente non è in guerra come il Ghana, comunque lasciamo perdere, ma non è intelligenza malata, è la normalità, è un ragionamento normale, è un ragionamento normale, il tuo è un ragionamento bacato davanti a tre persone massacrate, capito? Andrea da Trento, è tornata Flavia Vento, Flavia, che è successo? Come state? Bene, fammi sentire questo ascoltatore, Andrea da Trento, poi mi devi dire se ti vuoi sposare o no, perché sono arrivate notizie strane. Andrea, ha messo Flavia giù, recuperatelo per favore. Flavia, allora, come stai? Bene, bene, tutto a posto. Ma che fai, ti sposi? Ma no, perché il tritone al castello mi voleva sposare, però alla fine, insomma, il tritone è stato un falso annuncio, nel senso che era una cosa molto da ridere, e però alla fine il tritone gli ho dato buca io. Ma scusa, però tu avevi annunciato in pompa magna il tuo matrimonio. No, ma quale matrimonio, tesoro? Io prima che mi sposo devono passare 10 anni. Il mio matrimonio lo annuncio con DiCaprio, perché l'uomo della mia vita è DiCaprio. DiCaprio? Sì. Ma ormai è vecchio bagucco ormai, no? Vabbè, io amo lui, sono 10 anni che lo amo, quindi spero che... Ma hai provato a scrivere, a metterti in contatto con lui? Ma già ci siamo conosciuti, quindi ma quando spero... questo? Quando? A breve. Come? Spero che ritorni a breve. Addirittura? No, ma dai, non è possibile che tu hai conosciuto DiCaprio, dai. Certo, quando girava Guns of New York l'ho conosciuto a Roma. Vabbè, ho capito, ma ci sei stata insieme, ci hai fatto l'amore? No, però c'è stava a provare. C'è stava a provare, hai capito, Parenzo? Cioè, vi siete dati un bacio? Io ho capito. No, ma io non sono mai stato niente, perché forse quando ci ritroveremo ci sposeremo. Capito? Vabbè, Parenzo, che dici? Intanto Flavio Vento ha scritto qualche giorno fa: il castello fatato è tornato a splendere, l'attacco dei dinosauri non è riuscito, non ora si parte per Gize. Castello fatato, ci sono soltanto dei funghi allucinogeni che hanno mandato da Puerto Escondido, sì. Questa se li ha mangiati tutti e guarda i risultati, sono solo funghi allucinogeni, beh, non c'è nessun castello. Parenzo, è un appartamento io, guarda, te lo dico con cuore, io sono contro le droghe e lancio un messaggio a tutti i giovani, ma non c'è non bisogno, drogatevi perché la droga fa male, io non mi drogo, so già, io vivo già nel mio universo che è talmente bellissimo, sì. Non ho bisogno di nessuna droga. Ma tu sei mai andata alle cene eleganti di Berlusconi? Mai, non ho mai conosciuto Berlusconi. Non hai mai conosciuto Berlusconi? Beh, ti sarebbe piaciuto, però avresti avuto grande successo nel mondo dello spettacolo sicuramente, no? No, io l'ho avuto già da sola senza aver conosciuto nessun politico. Cioè, ho avuto il mio nome. Ma che ne pensi della Boccassini, di questa condanna, di questa richiesta della condanna? Facci la tua analisi. Guarda, sì, giusto. Secondo me è un uomo che sì, cioè, secondo me Berlusconi, che è una persona comunque pazzesca. Pazzesca. Tutti i soldi che c'ha poteva prendersi una bella modella fine e seria, invece di andare con queste quattro sciampiste che veramente non si possono che non si possono guardare, dici te, no? Cioè mi dici vabbè, sono stato con Claudia Schiffer, ok, l'ho pagata, dici, no, una volta, beh, non l'ho pagata, adesso ma chi va, ma posso dirti una cosa, l'ultimo è fidanzato, cioè io voglio dire una cosa, cioè gli uomini pensano di comprarsi le donne, io sono talmente vera che a me un uomo che mi si vuole comprare, se è morto tu mi devi comprare il cervello, non mi devi comprare, ho capito, borsa. Ma sai, per alcune perché persone perché io la borsa se la mando a fanculo, a me non me ne frega niente delle borse, e lo so, lo so, cara Flavia, lo so, però sai, non tutti ragionano così, vabbè, allora, ma che stai a mangiare? Che stai a mangiare? No, sto fumando una sigaretta, accontentiamoci basta della borsetta di del Rolexino. Guarda che non ci accontentiamoci della borsetta del Rolexino per farsi una scopata. Vai, ho capito, ma questi hanno preso, qualcuno ha preso milioni di euro, altre che il Rolexino e la borsetta, cioè... Vabbè, bello, ma rubi 4 milioni e mezzo, cara Flavia. Già te l'ho detto. La vita non è i soldi, le cose materiali non esistono. Ma tu come ti sentiresti al posto della signora Pascale a fianco a Berlusconi? Tesoro, che ti devo dire, quella sarà un'altra che c'è solo per i soldi non fanno la felicità, la felicità sì. È la natura, già ve l'ho detto, il castello, mo arriva un bel terremoto sì. E moriamo tutti, Mattie. Vogliamo continuare a vivere nell'illusione dei soldi, della borsa? Che ne so, vogliamo diventare qualcuno, vogliamo crescere. Ma tu lo vorresti in galera, Berlusconi? No, in galera no, eh. No, in galera non lo vorrei, anche se però non si può giocare con queste ragazzine che vengono da fame nera. E che gli faresti invece al coso? Che gli faresti a quello che ha ammazzato quelle tre persone a Milano, a quel pazzo? Tesoro, io sono per la pena di morte, nel senso che se una persona ha sbagliato, ammazza un'altra persona, però io credo molto nel karma, io sono molto karmica. Ma ho capito, tu passi dalla pena di morte al karma, però Andrea da Trento, allora Andrea. Buonasera, signor Cruciani di nuovo. Sì, la prima le ho dato ovviamente ragione per una cosa scontata, però mi permetto goliardicamente di ricordarle, sì, che la chiamai un paio di giorni dopo le elezioni. Dicendole che mi ero pentito di aver votato il Movimento 5 Stelle e lei mi diede del pazzo. No, io non ho detto del pazzo, che dopo due giorni mi sembrava presto, insomma, no? Ma le parole testuali furono: ma lei è pazzo. Vabbè, ma lei è pazzo perché erano passati due giorni, perché erano passati solo due giorni. Ma si vede che ero un preveggente e secondo me, visto anche come si stanno comportando adesso i parlamentari del Movimento, le discussioni che fanno e quant'altro, anche lei pian pianino sta maturando questa opinione. Tutto lì, io volevo solo fare un punto della situazione relativamente alle sue opinioni. Vabbè, grazie. Giuseppe dalla provincia di Varese, il punto della situazione. Pronto? Sì, dica. Buonasera Giuseppe da Saronno. Sì. Aspetta, io faccio parte del gruppo AUTAN, nel senso che rappresento una ventina di sì. colleghi che mi hanno nominato portavoce, quindi se ci dà un paio di minuti per sì. intervenire. Innanzitutto volevo farle, dottore Cruciani e dottor Paranza, giusto? Paranza, volevo sì, Paranza. Sì. Parenzi, vabbè, dai, la stessa cosa. Volevo fare i complimenti. No, è la stessa cosa per, evidentemente per sua sorella, per suo cognato, no, io mi chiamo Parenzo. Ma cosa c'è? Ah, vabbè, io pensavo a Paranza. Vabbè, Paranza, Parenzo, è più o meno la stessa cosa, dai, cambia poco. Vabbè, allora, vada avanti, genio. No, qui siamo serissimi. Io innanzitutto devo fare i complimenti per la trasmissione, perché molte volte, anzi, molte tante spesse volte, fate rimpiangere il vostro esempettaio il dottor Forbice. Vabbè, non me ne frega un cazzo, dai, Giuseppe, no, vado avanti, su. Abbia pazienza, non mi faccio innervosire con queste stronzate, su, dai. E andiamo. Vabbè, niente, certo, volevo semplicemente spezzare una lancia a favore del dottor di Parenzo, che già prima si è scaldato. Ma un non attimo. C'è bisogno di spezzare nessuna lancia, qui non si spezzano lance, si dice la propria opinione, sia breve, conciso, forte, determinato, ma di che parla? Spezzo una bilancia, anzi, sì, una bilancia. Adesso fra poco la mando a quel paese se continua. Dai, perché Parenzo è il turibolano della situazione. Che cos'è? Il turibolano. Vabbè, non ne posso più, basta. Flavia, ci sei? Io. Eccoci, Flavia? Da un genio all'altro. Com'è sta storia del karma? Non ho capito. Il karma, prima la pena di morte e poi il karma, non ho capito. Allora, il karma è che ognuno fa fare il male, cioè ognuno ha il suo male, il suo bene dentro. Sì. Ok? Vabbè, d'accordo, ma prima dici di essere favorevole alla pena di morte per questo qua che ha ammazzato tre persone a Milano e adesso invece dici, beh, però il karma, che vuol dire? Ma ti dico, forse non sono favorevole alla pena di morte, sono favorevole perché comunque, cioè, qualsiasi persona fa del male e ritorna indietro. Eh sì, questo sicuramente. Senti, ma ti piace la Boldrini che si batte con... Ma perché non parliamo di Asce Marchini che si sta per candidare come sindaco di Roma? Vabbè, da mo che Marchini è candidato a sindaco di Roma. Ma perché avresti anche un'opinione su questo adesso? Perché tifi Marchini tu? Sei certo avvento? Che tifo Marchini, perché Alemanno aveva detto che leva le prostitute e invece alle 10 di mattina ci sono... Ma quelle esisteranno sempre le prostitute a Roma? Dappertutto esisteranno sempre, la prostituzione esisterà sempre, Caravento. Bisogna legalizzarla, bisogna legalizzarla. E legalizziamola, però comunque se c'è, allora per favore non mi fate le campagne. Vabbè, Marino non ti piace il signor Marino? No, non mi piace per niente. Io tifo Alfio Marchini e ti posso dire una cosa, ne riparliamo tra un mese. Secondo me Marchini vince. Ma quando mai? Ma comunque la notizia è che non ti sposi, questa è la verità. Non ti sposi. Ma chi mi sposa? Mi sposo lo stritone. Ma chi te piglia poi a te? Ma chi te se piglia? Sai che è? Che io forse non mi piglio le persone. Ma secondo me non ti piglia nessuno, se una rompicoglioni tremenda, dai, su, questo castello, poi. Sei diventata una rompiscatole tremenda. Secondo me non ti si piglia nessuno. Però ti abbraccio fortissimo. Ciao. Ciao. Ciao. Dove siamo? Dove siamo? Franco da Milano. Sono la Tiburtina, sono. Franco da Milano. Cruciani. Vada, vada. Allora, Parenzo prima... lei, Cruciani, prima ha detto che Parenzo querelava quel tizio. Vuole querelare quel signore da Manto, una follia, sì. Secondo me. Sì, una follia, lì. sì, vabbè, correlassi che vuole. Però rompete qualcosa di unico nella vostra trasmissione. No, ma lei ha ragione, perché dice... Perché voi era una trasmissione così bella, ci si insultava, ci si mandava a fanculo, voi mandavate a fanculo gli ascoltatori. Adesso si è rotto tutto, se lui querela quel personaggio lì, si rompe tutto. Bravo, applausi per Franco, ha ragione lei. È vero o no? Sì, no, ha ragione lei, Franco. Non è possibile che adesso appena uno va pesante chiama la mamma. Ci sentiamo domani 18:30. Guarda, te lo dico col cuore, io sono contro le droghe e lancio un messaggio a tutti i giovani. Non drogatevi perché la droga fa male. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prendo atto che ormai è tutto finito.